Brian. Allora attenzione, canale 23, c'è qualcuno. Tokyo! Buonasera. Buonasera a tutti. E allora, cazzo. Ma basta, ci sia. No, mi fa un 20 minuti. Ah, io sono in ritardo, così è. No. Anche perché sono in ritardo. Ma. Sì, qua guardo un vecchio lavoro se non abbiamo via. Cazzo, tu non te lo guardi. Cos'è? Adesso stiamo guardando un giacchino d'oro. Oh. C'è una... un po' la voce strappata. C'è la voce strappata, adesso... sembra che sia... forse c'è il mamma che si avvicina al microfono. No? Aspetta, adesso... adesso lo avevo un calaccio un po'. No, un po'... ma l'amplificato sta usando. No, ho detto di girare sopra l'apparecchio. Però là, guarda, qua sono belli, questo. Ma per esempio, l'apparecchio si è amplificata. Sembra che sia. Mi dice... ma non so, adesso ho abbassato un po'. No, adesso già va un po' bene. Ma va benissimo un po'. Allora adesso va bene. Però non è. Perché magari mi sembra che la apparecchiatura cambi la ricezione. Adesso sto usando quello normale, capito? Per quello c'è anche delle cose, 9.30. 9.30 solo? Ah, di più non ti bussurà, no, anda. E qua vaga lo svizzere a buttare il mio faccia e cazzo e si andava tutti in giro in suo segnale cazzo per far benedire ma guarda che interessa vai adesso con un caratteristico 50 cm va bene? Sì, no, non sarà così tanto di più non si può fare. La vita era in varie si ferma lì quindi no, non ti posso fare di più. C'è una luce che qua la radiazione rimane più occupa, mentre invece il coraggio rimane più acuta la radio con 6.009 anche con 5.005 rimane più chiara la radio con questo rimane occupa la radio tu sei già bravo il 5.5 sta fermi? No, è già così sì dipende dalla radio che adotti perché anche questa rimane, anche la tua rimane un po' cupa, rimane. Ecco cos'è. Ma quella di ieri è più chiara. Marcella, stiamo in prego a bordo di Sarraia. Un po' ci di bene, un po' ci di male, ma c'è come un apparecchio, dai. Sì, con un apparecchio la ricezione sembra buona. In certi apparecchio invece la ricezione sembra occupa magari non perfetta, ecco, però si riesce a capire abbastanza bene. Sì, sì, infatti, così. Vabbè. Andiamo così. Ah, per fatto che si riesca a capire, quella è la cosa più importante. Sì. Quella è la cosa più importante. Non sta andato in giro. No. Sono sceso al cimitero, sono sceso. Poi... una pasticceria in Sarrano. E gli dà Sarrano di Rubut. voi quando avete evidentemente strano è, ma fanditeci per i gatti. Ho preso un mio sarrato ma che mi dico vado a trovare presto, però chiude la sette, chiude la parte per i cugini, per il bar. Ah, ecco. E fai cerca il tv. Perché? Ah, chiudo la sette, mi dire. Sì, no, faccio tanto quel poco di decore per il bar. Ma non so, diciamo a fine anno. Poi, da fine anno, fate che chiudo tutto. Certo. E direi che la questione comincia a essere seria, allora fai tutti i risotti, meglio mollare tutti all'inizio, a chi sembra? Sì, ecco, devo dire se no, non la faccio a pagare le cose, con chi ci bisogna lasciare un pochino e poi molla. Poi dice devi andarsene in pensione. Vabbè. Già per salvare per solo. Vabbè. Un altro che vi fa che chiude. A tutti gli è facile, a domani capire è facile, sì. A chiuso lì. Cosa che una baracca più da mille. Ma è la tua morte, dove la pasticceria ancora alla croce, ci sono? L'unico pasticceria c'era. Vabbè, a domenica c'è il geraccio, non apre. Sembra abbia pigliato in giro. Ma domenica mattina apre il geraccio e ci sono le facce al geraccio. Io ho preso varie volte, adesso lo so, sono apparito che lo ci vado. No, era chiuso stamattina, il geraccio pure era chiuso. Infatti sono andato alla cola e l'ho preso lì. Allora domenica chiude. Forse vuol dire, la domenica chiude. Aspetta. Con l'altro bicchiere al bar giù in su. Ha chiuso lo stesso. Ma lui non è un banchero, è pasticceria, no. Non so. Allora le cose. Ma vuol dire che si aprire, se apre delle cose. Ma guarda, figliali. Se no ci devo uscire a Sant'Orso. Dai vicino, so. Dai vicino, perché devo farci un salto a Sant'Orso, fammi credere. Sempre che siamo a pasticceria dove si vede. Poi, ma chi so, la mamma di zomba pasticcione, tengono bene, ma i fattori, non lo so, se non vanno a benedire, so. No, quello di Sant'Orso è fa buono. Quello che ho preso alla Conad, già sono buone, a Puglia. Già è un pasticcere, arrivi di là giù. Infatti alla Conad ci sono vari tipi. Vari tipi. Si va al monte. Dice prima di arrivare alla chiesa, c'è una via, come si chiama, e lì c'è, lì fa buone, e poi c'è ogni faccia che fanno lì, e però c'è, perché gli altri pasticceri sono piccoli, invece lì sono, lì al monte sono un bel grandi, cazzo. Sì, no, infatti, anche quello che c'è a Sant'Orso lo fa grandi, le fa. Cosa di mamma io ma non l'ho vista, non so nemmeno la prego la pasticceria. Quindi se ha preso il mio figlio, non so dove li ha presi, e te l'ha portato giù, la mia moglie. Però sono grosse, e devo salire al monte, lui subito li prende al monte. Sono durissime, poi sono grossi, capito? No, anche quello di San Forso le fa buone, le fa. E c'è il bar dentro, ci vuoi aiutare, ti un caffè e apri degli sbacchi. Paghi che mangi. Se ti è chiaro, caffè, non faccio che guarda. No, va bene così. Sì, può mangiare le paste, noi possiamo mangiare le paste, però ogni tanto qualcuno non fa male, dai. Non fa, non fa male, no. Già tanto già si può uscire fuori. E poi anche la cola, già ci sono, infatti. Ma non è preso mai la cola. Tu non sei mio padre, magari il tuo padre è figlio, magari non lo scrivi a prendere. Ma io no, a chi non immagino, capito? Non ti guardo un quattro volte alla tua mia figlia che è fatto, ma pallino, e già ce la mangiavo, però se lo immagino è meglio, Non fate luci, se la mangio è meglio, rimane senza. Quando la forata lì a San Giovanni, piaccia. La mattina prima andare alla bomba stavamo lì ai punti dove c'è Marta Macchi, cazzo, quando facciamo un carino con la cala di cavallo, cazzo, oppure mi prendevo un paio di pazze e curavo avanti, ma tutti i giorni Vuol dire che si sente così, a voglia, cazzo, un panino regalato da sostanza. Cazzo, prima facciamo così, tutti facciamo così la maggior parte. Cioè, ma tutta la mattina adesso, cazzo, mi fa morire, parecchia gente. Cazzo, quella sta cucinata da avanti con la piazza, ragazza, è buona, un bel panino, lo metto lì in mezzo, guarda. E fino a mezzogiorno, già riuscivo a digerirla bene. Un fax. Fate così, purtroppo, digerisce, non è ferro. E tu quando la puri, a non dire, un movimento, devi andare in volo, ma ti vuole l'appiccicco, è veramente brutta. Altri tipi, eravamo qualche anno in meno, così che... Ti ha fatto qualcosa, dove? Piaccia. Poi fatto così. Ma... Tiremo davanti a una testa. Se non mi batti a mangiare un'altra cosa, la mattina. Ma io la mattina... Mi metto un bicchiere di cascia, di latte. Se non scaldo. Cazzo, è una merendina. Fino a mezzogiorno, fino a pranzo, con me, tranquillo, solo mattine. Tutto la mattina, qualche mattina faccio anche il burrino, mezzo litro di latte, e si avanti. No, la maggior parte, un bicchiere di latte con una merendina e si avanti, e la gioia. Oh, no. Quattro fette biscottate, forse, fino alle 10:30, 11 sto bene. Poi da lì mi mangio una mela, un pezzo di pane o qualche altra cosa. La mattina non fai colazione? Sì, che la voce, che non arrivo qua. Quattro fette biscottate con il tè come i migliori bacini. Ecco, già va buono stesso, no, io magari lo faccio colazione, qualche volta magari mi mangio una pera, una mela, mezza mela per dire, dopo, capito, ma non sempre, qualche volta capita così. Ma mi basta un bicchiere d'acqua con la merendina, fino alla una, sono tranquillo, capito? Se mi chiedo fame prima, cazzo, qualche cosa la mangio ugualmente. Sì, no, è fatto così. dicevo, non si può fare a tenere un po' quell'equilibrio, che non fa salire molto la glicemia. È chiaro, se ne abuso, chiaro, mi pare a me. Oggi la misurata 164, non è assai, va. Mamma mi fa sul massimo che mi sale 134, cioè 135, non di più però. Poi delle cose mi scende a 106, 117. La mia sua cambia, diversa la fissione, capito? Anche mia moglie vuol dire, 119, 114, 130, 100 volte, perché qui, ma io ce l'ho sempre più alta di lui, perché diversa la mette via la mia moglie, capito? Ognuno ce l'ha diverso, ce l'ha. Ognuno ce l'ha diverso, ecco cosa è. Lei prende la pastiglia, io pastiglia, da prima la pastiglia, ma faccio l'insulina. Perché lei prende la pastiglia, ma per questo. Magari come, più o meno come la sua, capito? Perché lui mi dice, non c'è così fa. Io prendo quattro pastiglie la mattina, una dopo pranzo e quattro la notte. Vabbè, io pastiglie fino quattro la mattina. A mezzogiorno sono comunque tre a mezzogiorno, e tre la notte, più faccio l'insulina, però. Non sono pastiglie per la diabete, capito? E per altre cose, cioè prendo anche la pastiglietta in mezzo, capito? Sì, fatto così. Bisogna che un coso calmi piano piano. E ti la paranfisi. Poi sono tutti uguali, capito? Da un altro cambia, capito, per cui è un macello, ma adesso faccio, adesso dobbiamo telefonare a prendere l'appuntamento al centro di ambizio, ovviamente, poi vediamo un po', anzi, dobbiamo fare, già ce l'abbiamo l'impegnativa, però non dobbiamo telefonare a prendere l'appuntamento. Sì, a me, come sono solito, mi ha detto, a metà gennaio si vedrà quando arrivano gli studi dottoressi. È un macello, ragazzi, si guarda in cose, in maternità, in dottoressa, boh, avanti, insomma, se rientrando a fine nome, non lo so. Sì, non so, cambi di grattante, a bicicletta, tu diceva, la carizzaia. Ma era bravo a fare un clima, era un po' brava, era. Avrà a rientrare, no? Rimane sempre in maternità, magari, avrà a rientrare. Nove mesi dura, si è già gli arata. Vai a Parigi, perché chi è già grande. E già un anno, dovrebbe essere rientrato, penso, no? Allora, vivi un po' di giocatore, si veglia pure di vacca tranquilla. Ma, anche lì, mi pare che siamo un giorno di travaglia, c'è a far rientrare. O è già rientrata? Sì, andiamo bene. E poi tutto cambiato, non è più come prima, ma ce la vincerò a fare, poi là conservando l'apparecchio, e per tutto era già molto brava, ma brava veramente, poi tutto che è andato in pensione, e quando non c'è bisogno, è giovane questa qua, è giovanissima questa qua. Sì, si va a fare il museo, la batteria. Faccia, in fretta fa. Vabbè. Ma già rientra. Non voglio. No, io lo posso aspettare a metà gennaio e poi mi dicono a quale non ho segnato di queste due. Vediamo bene, eh? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oh, il macello è un macello a me. Cazzo, i sanguigni sono sopparichi, insomma. Mi sembra che i sanguigni sono sopparichi, insomma. Siamo parecchi che siamo senza dottoresse, senza dottori. Quindi ci hanno detto a metà gennaio e poi ci fanno sapere. Quindi... dopo a metà gennaio lo dico, ce lo fanno sapere chi ci abbiamo. Senti, calando il nuovo, va. Calando il nuovo. Dove? Senti, calando il nuovo, si fa attenzione, ma ci farà il sapere. Già mi sta la dottoressa mia, con le che c'ho nel coso, mi sta controllando lì, quindi no, anche se non c'è, no, quando rientra che sta la dottoressa, ha detto che è una che è femmina, che sono due femmine, dottoressa, due diabetologi, ma non rientra se si saprà chi ci abbiamo. Ehi, ehi, ehi, la teoria che sta di tradizione è una cultura che e vabbè insomma non c'è certo adesso lo fuori tutta malattia per cui non c'è più tranquilla non c'è certo che è tutto malandato e vabbè sono sono bene ecco che cosa speriamo che ci visiti. Visita qua, visita là, cazzo, non mancano mai. Mi domani ne ho una. Domani ne ho una. Per fare i reni. A cosa in quel palazzo dove nascono i bambini di Piano San Pietro, la stessa piano. Cazzo, uno e mezzo, ma che è uno, una cosa del genere. Oh, vabbè. Cercate di stare bene, poi già faccio vedere una stessa la visita, non è che sia pesante. Ehi, ehi, ehi, un po' che mi ricordo male. E non mi ricordavo nemmeno di quell'appuntamento, insomma. Cazzo, ci siamo diventati cazzo. Per male siamo andati a Valpicicco, dove era prima, e ci hanno installato il teatro attuato, e si è trasferito, e si è parato adesso, e meno male mi hanno lasciato a domani. Certo. No, ci avevamo dimenticato di avere l'appuntamento. Sì, vabbè, non fa nulla, devi aggiungere la sua appuntamento o ti visitano. Certo, perché non faccio anche tutto gli analisi, già pronti per andare, invece ci siamo dimenticati. E comincia, visita qua, visita là, qualcuno ha capito di dimenticato, ecco, e succede così. Infatti, da Cappalucci, io dopo mio, adesso a gennaio devo prenotarmi per la visita cardiologica. Poi, gennaio o marzo, devo fare, fino a marzo, a chiedere l'appuntamento. Grazie, sempre a controllo, adesso, controllo qua, controllo là, ma a me sono anche un po' più tranquillo, vai, è giusto che sia così. Certo. Perciò adesso a cercare, andrà a giocare, visite, e che non mi faccio visite, da giocare un po', lei è una giusta. Non lo faccio, sempre visite, visite, visite, L'importante è stare bene. Vabbè, quello è certo, bisogna stare bene, allora. nessuno, guarda, sta bene. Si è salito il ragno e è tranquillo, va. E va avanti, benissimo. Che fa non si può che fa. Ehi, ehi, io chiudo, vai. Devo fare cosa? Ci sentiamo la prossima, buon provvedimento, grazie a chiacchierato. Un po' che tiro, ma fa piacere ogni tanto, Ok, ciao. Ci risentiamo Gio Maria, alle prossime. Ciao Gio Maria, fammi bene. Ok, ciao figlio. Grazie.